Io sono restato un po' impressionato, vi confesso, dalla visione non della faccia di Felice sulla stampa, che non leggo, ma dalla visione di Terra e Libertà. Non perché quest'ultimo film di Ken Loach mi sia sembrato un capolavoro, ecco, senza voler rubare il mestiere alla camera qui presente, sono abbastanza d'accordo con chi l'ha trovato frammentario e sentimentale, per non dire che quel finale con i vecchietti superstiti che alzano il pugno chiuso, nonostante la presenza di una singola nipotina volonterosa, mi è parso un po' deprimente. Io sono stato impressionato dal film, o più esattamente dal dibattito che lo accompagnato, perché non avrei mai pensato di dover, alla mia età, imbattermi in polemiche di quel genere. Io ho letto L'omaggio alla Catalogna di George Orwell, che di Terra e Libertà è l'ovvio presupposto ideologico e anche narrativo, quando ero studente di liceo, cioè alla fine degli anni 50. Lo pubblicava a puntate una rivista anarchica, credo che fosse Umanità Nova, con cui ero entrato accidentalmente in contatto. Anche grazie a quella lettura, che mi permetto di raccomandare di cuore a chi per caso non l'abbia fatta, e già che c'è, in tema di guerra di Spagna, potrebbe anche cercare di metter mano, se ci riesce, su una copia dei Grandi Cimiteri sotto la Luna di Bernanò, che affronta lo stesso problema da tutt'altro punto di vista, ma con effetti altrettanto devastanti. Dunque, grazie a quella lettura sono riuscito ad attraversare indenne 35 anni di frequentazione della sinistra. Indenne nel senso di non cedere alla mitologia pur fascinosa della Terza Internazionale, con le sue illusioni e anche con la sua caratteristica logica dei due tempi, quella per cui bisogna fare un passettino alla volta, no? Guardandosi bene dalla tentazione di lasciarsi portare dai sogni di rivoluzione quando c'è una guerra da vincere, perché si sa che a voler tutto e subito si finisce sempre con non avere niente mai. E non credo di essere stato il solo a seguire questo percorso, ne abbiamo discussi in tanti per almeno un decennio e mezzo, e in parecchi abbiamo concordato, se non altro, sull'idea che le esperienze su cui la sinistra si era divisa 20-30 anni prima non potevano non essere considerate superate, anche perché, diciamocelo pure, non è stato soltanto l'esito della guerra di Spagna, in cui quelli che sostenevano che era la necessità di comportarsi in un certo modo perché prima si doveva vincere, e poi invece hanno perso, non è stato soltanto quell'esito a farci capire che anche seguendo il più scrupoloso gradualismo, il rischio di trovarsi, come dice il filosofo, con il culo per terra è tutt'altro che rilevante. Evidentemente questa era un'illusione, non era così. Basta un film non particolarmente bello, anche se commovente, perché tutti caschino dal pero e ricomincino a chiedersi con inesausta energia, come ai tempi di George Orwell o come a quelli delle polemiche intergruppi, e se i poumisti per caso non se la siano voluta, se il Partito Comunista Spagnolo non avesse le sue buone ragioni, se magari, pur avendo qualche torto nello specifico, forse fucilare Nina è stato un po' un eccesso, ma non abbia altri meriti in nome dei quali è meglio passare sopra un'inezia come le giornate di Barcellona. E siccome è difficile credere che il problema sia tutto di valutazione storica su degli eventi che risalgono ormai a 60 anni fa, è fin troppo lecito il sospetto che tra noi intesa come sinistra, sì, tra noi progressisti, sia presente in forme neanche tanto nascoste una volontà d'egemonia che non si lascia piegare neanche dalla storia. Che qualcuno consideri che la necessità di fare un passettino dopo l'altro non sia tanto una scelta tattica, che si può anche discutere magari a seconda dei momenti tattici, ma sia una categoria permanente dello spirito. Sì, lo so che sono discorsi un po' vaghi, ma aspettate un momento, eh? Aspettate per esempio che stabiliscano la data delle elezioni e vedrete che sono fin troppo precisi.